Friuli nel mondo, 129esima trasmissione dedicata agli emigrati, storia di uno e di tanti. Questa è la storia di uno di voi, di un friulano. Una storia vera, bella come una fiaba. Siamo sicuri che essa vi piacerà e certamente tanti in essa riconosceranno almeno un po' della loro vita. Forse addirittura, mutati i nomi dei personaggi e dei luoghi, vedranno specchiata la loro esistenza. Una lettera proveniente dal Sud America, dalla Colombia, si apriva con una dichiarazione che non poteva non interessarci. Voglio narrarvi la mia storia. E l'autore, Quinto Ceconi, ce la riferiva con una chiarezza, con una proprietà di lingua, con una scioltezza di stile che ci hanno lasciati ammirati. Perché raccontiamo questa storia? Perché essa chiude, come facilmente comprenderete dalla sua lettura, un insegnamento. Che bisogna aver fiducia in se stessi, che non bisogna lasciarsi sopraffare dallo scoramento dinanzi ad ostacoli che a prima vista sembrano insormontabili, che senza sacrificio non vi è gioia. La storia vera, bella come una fiaba del friulano Quinto Ceconi, è soprattutto la storia di un uomo tenace, è l'entusiasmante curriculum vitae di un lavoratore che ha coraggiosamente preso al momento giusto le decisioni giuste. È la riprova che la buona volontà è il miglior strumento per affermarsi, che ciascuno di noi, insomma, è l'artefice del proprio destino. Intendiamoci, si tratta della vita di un lavoratore, di un emigrato partito dal Friuli, come egli stesso esplicitamente dichiara, senza un preciso mestiere in mano. Pertanto le sue conquiste riguardano non un campo straordinario come potrebbe essere quello della scienza o delle arti, ma il campo umile quanto meraviglioso del lavoro, quello inteso nel senso più comune e corrente, che è il lavoro dell'operaio. Certo, lavoro è anche l'opera del contadino, dell'impiegato, del dirigente d'azienda, dell'artista, dello scienziato. Ogni attività umana comporta fatica e merita rispetto. L'importante è stabilire che dovere di ogni uomo è saper fare bene un lavoro, il lavoro per il quale ciascuno assume un posto e un ruolo precisi in mezzo agli altri uomini, il lavoro svolgendo il quale egli si dimostra prezioso per tutta la società. L'operaio Quinto Cecconi ha saputo vincere tutte le prove, anche le più dure, cui la vita lo ha sottoposto. La posizione che oggi egli occupa è il miglior premio ai suoi sacrifici, ma noi a quello abbiamo voluto aggiungere il premio di narrarvi la sua storia. Premiando lui, intendiamo premiare tutti coloro che sanno intonare un inno di gioia, di fede e di gratitudine alla vita. La storia che stiamo per narrarvi è quella di un operaio friulano che ha fatto della tenacia e della buona volontà le armi per diventare qualcuno nel proprio lavoro. Non è una storia a forti tinte, non è la biografia di un uomo che, partito dal nulla, si è costruito un'immensa fortuna. È semplicemente la storia di un lavoratore che si era prefisso una meta che talora gli appariva tanto alta da crederla irraggiungibile e che ha saputo vincere scoramenti e delusioni, superare difficoltà a prima vista insormontabili. È una storia in cui forse più di uno dei nostri corregionali potrà riconoscere se stesso. Esattamente 15 anni fa partiva per la Colombia uno dei tanti emigranti della nostra terra, Quinto Cecconi. Aveva un contratto di lavoro inviatogli dall'ora defunto signor Pietro Zuliani di Forgaria, che da un trentennio lavorava in Colombia. Quando lasciò l'Italia, Quinto Cecconi non conosceva alcun mestiere né alcuna lingua all'infuori dell'italiano e del friulano. I corsi da lui frequentati, oltre le 5 classi delle scuole elementari, si riducevano a 4 anni di scuola di disegno a Clauzetto. Quando giunse in Colombia, cominciò a lavorare nelle miniere con una paga corrispondente a circa 30.000 lire italiane al mese. Non era davvero molto, ma il nostro operaio non si lamentava, perché in realtà non conosceva nulla di quel lavoro capitatogli così, come si suol dire, fra capo e collo. Tuttavia si appassionò a quel mestiere prima sconosciuto e nel giro di pochi mesi aveva già imparato abbastanza per poter cominciare a dirigere i lavori. 2 anni più tardi ebbe un aumento di 20.000 lire mensili e una promessa di maggior ricompensa in futuro che rimase promessa. La situazione era tutt'altro che rosea. Con famiglia a carico e con il cumulo dei debiti lasciati in Italia prima di partire, i risparmi di Quinto Cecconi si riducevano praticamente a zero. Nel gennaio 1954, e cioè a quasi 5 anni di distanza dalla partenza dal Friuli, era riuscito a mettere da parte sì e no 100.000 lire e ogni speranza di far ritorno in patria diventava ogni giorno di più un'illusione. Fu allora che decise di farla finita con una situazione che non accennava a cambiare. Prese le sue poche cose e si avventurò a cercar fortuna altrove. Per intercessione di un mercante di Saragossa, provveditore di un'impresa canadese proprietaria di 7 macchine per il dragaggio di sabbie aurifere, trovò lavoro come ingrassatore, un lavoro umile, poiché si trattava di dover lavare anche piatti, posate e stoviglie che gli operatori della draga e il dredgemaster usavano. Ma Quinto Cecconi si impegnò in quell'occupazione con tutta la volontà. Gli pareva che se fosse riuscito a diventare operatore di draga sarebbe stato felice e mise allora tutto l'interesse possibile per imparare come la draga lavorava, quali erano le manovre da compiere, ma tutto era così difficile, complicato, non ci capiva nulla. Guardava l'operatore, gli sembrava che non avrebbe mai potuto diventare come quello. Il dredgemaster poi gli pareva un re seduto sul trono. E un'altra cosa rattristava il nostro operaio. I suoi compagni parlavano inglese e lui non ne capiva una parola. Quando doveva rivolgersi a qualcuno lo faceva usando la lingua spagnola, che conosceva già abbastanza bene. Eppure, La coscienza di compiere tutto il proprio dovere lo preservava dall'oscoramento di cui chiunque altro sarebbe caduto facilmente preda. Una volta, lavorava di notte, Quinto Ceconi raccolse tutto il suo ardire e domandò all'operatore di turno che gli facesse il favore di insegnargli come si manovrava la draga. L'altro accondiscese, lo lasciò provare quella volta e altre ancora. In capo a 3 mesi l'operaio friulano si accorgeva che quel che aveva ritenuto irraggiungibile per lui, manovrare una draga, era cosa che sapeva fare già con una certa disinvoltura. Tanto che un giorno l'operatore lo chiamò per domandargli di sostituirlo un momento, dovendosi assentare. Ma presente era il dredgemaster, che vedendo come Quinto Ceconi lavorava alla draga, avanzò al sovrintendente la proposta che l'operaio friulano fosse promosso a operatore di prima categoria. Così, dopo 4 mesi esatti dal giorno in cui aveva incominciato a lavorare con l'impresa canadese, Quinto Ceconi lasciò il posto di ingrassatore per quello di operatore. Fu quello un giorno di ineffabile felicità. A quella draga, Quinto Ceconi lavorò per 9 mesi. Poi passò ad una draga più grande, che muoveva circa 10.000 metri cubi di minerale al giorno e alla quale erano addetti soltanto operatori esperti. Il nostro corregionale si sentiva sempre più contento, vedeva che faceva progressi. Dove non progrediva affatto era nella lingua inglese. Dopo un anno era pressappoco al punto di partenza. Ma un giorno Quinto Ceconi decise di mettercela tutta. Cominciò con una parola oggi, due domani, una frase doman l'altro. E oggi l'inglese non è per lui una lingua inintelligibile, bensì una lingua che sa usare con facilità, anche se non ancora perfettamente, con tutti. Per più di 9 anni il friulano emigrato nel 1949 in Colombia lavorò come operatore alle diverse draghe, acquistando sempre maggiore sicurezza, abilità ed esperienza. Ma dal 1 dicembre 1963, un giorno indimenticabile per Quinto Ceconi, egli è ben di più che un operatore. È stato promosso ufficialmente dredgemaster e lo circondano la stima e l'ammirazione dei compagni. Ora pensa sorridendo a quando a un dredgemaster gli pareva un re seduto sul trono. Questa è la storia di un lavoratore friulano emigrato. Una storia vera, bella come una fiaba, che onora il protagonista che l'ha vissuta e che fa onore al Friuli e all'Italia. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, a cura di Ermete Pellizzari. Musica di Piero Pezzetti.